Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera iniziamo con una voce molto popolare, forse perfino più famosa della mia. Ricordiamoci che la radice di tutti i mali è la inequità. No a un'economia dell'esclusione e della inequità. Questa economia uccide. Questa frase di Papa Francesco sull'economia è diventata molto celebre, ha fatto molto discutere, anzi ha riacceso per così dire il dibattito sulle posizioni sue, del Papa e di tutta la Chiesa, sull'economia di mercato. A parte il Papa, molti preti non nascondono le proprie perplessità a questo riguardo, molti ma non tutti. Un battagliero sacerdote americano, per esempio, sta conducendo da anni un'accesa battaglia per dimostrare proprio questo, cioè la compatibilità dell'economia libera con la religione. Si chiama Robert Sirico, è di origine italiana, i nonni erano campani, e ha dato vita a un istituto molto autorevole nell'ambito delle istituzioni a difesa del libero mercato, l'Acton Institute, che ha un'impronta particolare. Questo infatti si occupa dello studio della religione e della libertà. È una fondazione che ha sede nel Michigan e ha una presenza anche in Italia, a Roma. Padre Sirico riassume le proprie posizioni in un recente libro che è stato pubblicato da Cantagalli, A difesa del mercato, le ragioni morali della libertà economica, 260 pagine, 17 euro, è tradotto da Cristina Caimi e Costanza Albè. E nella prefazione all'edizione italiana, Padre Sirico riassume efficacemente la propria posizione, notando come il benessere materiale dell'essere umano sia inseparabile dall'innovazione tecnologica e dall'accumulo di capitale. E naturalmente illustra la propria posizione rispetto alla diffidenza per il denaro che soprattutto il Papa, questo Papa, manifesta. Scrive infatti Padre Sirico: mentre l'idolatria è naturalmente sempre ovunque da evitare, è importante capire il ruolo positivo e indispensabile che il denaro svolge nell'economia contemporanea. E questo ci aiuta a distinguere il denaro come mezzo di scambio dal denaro come oggetto di culto. In questo senso il capitale diventa un indicatore, scrive il sacerdote, della pace sociale, un istituto indispensabile per promuovere una prosperità giusta e sostenibile. E questo aggiunge l'esatto opposto delle forme grezze e venali del materialismo che il Signore definisce mammona. Perciò Padre Sirico difende nel suo libro e nelle sue posizioni il mercato, la globalizzazione e vuole controbattere a quella che viene letta come l'ineguatezza del capitalismo come prospettiva morale generale o come visione del mondo. Ma a questo punto facciamoci spiegare alcuni punti dall'interessato. Buonasera a Robert Sirico. Buonasera. Padre Robert Sirico, lei comincia il suo libro ricordando che lei è nato ideologicamente di sinistra. Allora, come è avvenuta la svolta rappresentata dalla scoperta delle religioni, ma anche dalle virtù del libero mercato e dell'iniziativa privata? Allora, la storia è molto complicata, e ho detto nel mio libro, ma il punto di riferimento per me è quando ho scoperto che la proprietà privata è importante per il benessere dell'umanità. E quando ho pensato di questo, mi domando: ma chi è uomo? E a questo punto ho ricordato, quando ero in catechismo, che l'uomo è un parte della terra, ma anche una parte trascendente. E questo mi ha seguito nel campo di economia. E poi sono ritornato alla Chiesa, che ho abbandonato per 13 anni prima. Ecco, lei infatti scrive che l'economia libera è la premessa irrinunciabile per la libertà tout court. Quindi qual è l'importanza dell'economia libera da questo punto di vista? Allora, libera. L'uomo ha una ragione. La ragione del mondo materiale dell'uomo è la sua ragione, e se non possiamo usare la nostra libertà siamo restricted nella nostra scelta. L'economia di libertà è soltanto una parte della libertà in genere per l'uomo. Se non abbiamo scelta di scegliere la nostra opinione opinione o religione o i beni per la nostra famiglia, non abbiamo l'opportunità di essere un vero uomo. Infatti lei dà anche un fondamento teologico, per così dire, dell'iniziativa privata. Ricorda che l'uomo, essendo fatto a immagine di Dio, Dio non fu uno stette ozioso, ma fu attivo nel creare il mondo. Esatto. E quindi a questo ci richiama. E non solo, solo questo, ma lui, quando Dio ha creato l'uomo e le donne, lui ha detto che, infatti, sii come me, creative, intelligente, procreative anche. Questa è la vocazione, in un certo senso la vocazione umana è inclusa la vocazione di essere produttivo, di agire in una maniera creativa. Ricordiamo che quando nella parabola di Gesù dei talenti, il maestro in questa parabola ha dato vari talenti ai vari servi, e coloro che hanno prodotto un gran parte della ricchezza, spiritualmente, certamente Gesù intende, ma è un modello per noi di pensare della nostra vocazione. E a proposito della creazione, lei fa un'altra osservazione quando nota che il riconoscimento del peccato originale ci deve rendere modesti. Qual è l'implicazione di questa scoperta? Che cosa significa essere modesti dal punto di vista di chi agisce economicamente? La realtà è che l'uomo ha fallito, abbiamo peccati, non soltanto l'uomo imprenditore, ma anche l'uomo di politici, l'uomo di burocrazia. Dobbiamo avere il limite del potere, e per questa ragione il principio di sussidiarietà è molto utile, molto utile per noi. Il principio dice che i bisogni, dobbiamo agire a livello più vicino a noi, per aiutare gli altri, e lo Stato deve essere limitato soltanto per quando è assolutamente necessario intervenire. Soffermiamoci su questo aspetto di essere di aiuto agli altri. Lei ricorda come l'impegno per i poveri sia un imperativo morale per i cristiani, uso le sue parole. Come garantire questo imperativo, come realizzarlo, però, è affidato all'intelligenza umana. E qui il magistero non è dirimente, si possono seguire varie strade, non c'è il Papa che può parlare ex cathedra su questo tema. Sì, io dico che il mercato che produca queste ricchezze è semplicemente un meccanismo di servire gli altri. Se vogliamo per i poveri di avere il pane o i vestiti o i tetti o medicine, dobbiamo sapere come possiamo creare. È un mercato è molto utile per trasferire informazioni, talenti e produzione. Per questo io credo che il mercato può servire l'umanità e anche Dio. E infatti, per aiutare i poveri, lei preferirebbe affidarsi alla carità intelligente, come la chiama, piuttosto che non al welfare. Perché? Sì, perché l'uomo ha un certo dignità. Dobbiamo essere vicino ai poveri, che loro che hanno bisogno. E la burocrazia, nel senso del welfare state, è distante, non è intimo. La burocrazia può guardare soltanto dal distanza della persona, invece di agire come vicini a coloro che sono vicini a noi. E anche possiamo avere vari carità, varie istituzioni di carità. La Chiesa ha inventato questa nozione di carità strutturato e internazionale. Invece oggi abbiamo un welfare state che non riguarda la persona nel più ampio, in senso di non soltanto i bisogni di materiale, ma anche spirituale. Il welfare state e altre organizzazioni internazionali sono una forma di cristianità, ma è decadente, è fallito, è un'imitazione. E Papa Francesco cosa ne pensa di questa sua difesa del mercato e della libera iniziativa? Lei deve chiedere a lui questa domanda. Lui ha detto che non capisce bene l'economia, ma è anche ha un'allergia per l'economia. Io vorrei dire che il mercato è una maniera in cui possiamo servire i poveri. Questo dialogo è molto importante, specialmente in questi giorni. Grazie a Robert Sirico, autore di A difesa del mercato. Buona serata. Buona serata, grazie. Un cristiano controcorrente fu uno dei maggiori scrittori inglesi, anzi anglo-irlandesi del Novecento, C.S. Lewis. Le sigle stanno per il nome che non gli piaceva, Clive Staples. Lewis è l'autore del ciclo universalmente conosciuto delle Cronache di Narnia, convertitosi al cristianesimo anglicano nella primavera del 1929. Questa conversione segnò in maniera indelebile la sua opera, che è ricostruita in particolare nella biografia di un teologo inglese, Alistair McGrath, si intitola La vita di C.S. Lewis, genio eccentrico, profeta riluttante, pubblicato da B Edizioni, tradotto da Marco Barone, 458 pagine, 29 euro. Lewis visse tra il 1898 e il 1963 e ho appena ricordato l'opera alla quale è universalmente legata la sua fama. Ma Lewis è considerato anche un influente scrittore religioso. Egli è importante, come ci spiega l'autore, perché è probabilmente il più credibile e influente rappresentante del cristianesimo puro e semplice da lui stesso sostenuto. E proprio per questo, conclude McGrath, Lewis continua a essere una figura molto controversa, vittima di due opposti fondamentalismi che se ne vogliono impossessare o che lo vogliono combattere: il fondamentalismo progressista e quello conservatore. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Entra nel mondo radiofonico e televisivo con le nuove competenze 4.0. Master full time della Business School del Sole 24 Ore e Radio 24. Radio, TV e web content. Con diploma e stage. A Milano dal 27 novembre. Per candidarsi alle selezioni e borse di studio, www.radiomaster.ilsole24ore.com. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, e adesso parliamo di mucche, api, farfalle, formiche e altri animali con una serie di libri appunto animalistici. E cominciamo con una brillante ultra novantenne, Mirella Delfini, che ha scritto Senti chi parla, interviste con gli animali, pubblicato da Edizioni Clichy, 342 pagine, 15 euro. Qui di animali ne troviamo veramente tanti. Si parte addirittura con un batterio che ci riporta all'epoca dei faraoni, poi ci troveremo il delfino, il cavallo, il paguro, l'alce e tanti altri. Animali che sono appunto intervistati dall'autrice, la quale attraverso le domande e la traduzione delle risposte bestiali ci dà un bel quadro di storia naturale senza annoiare, ma anzi appassionando con le scoperte che potremo fare dal libro. Il colibrì, per esempio, si sente molto orgoglioso dei suoi record, il cavallo sogna di poter riposare in Inghilterra, che a quanto ha sentito considera il paradiso per la propria razza, la mosca spiega le proprie vicissitudini da turista, lo scoiattolo ci compiange per la mancanza di cui soffriamo della coda, e poi tante altre curiosità. Farfalle e formiche invece troviamo nel libro di uno scrittore irlandese, Lafcadio Hearn, che si fece conquistare dal Giappone, dove divenne Koizumi Yahamo. Lo scrittore visse tra il 1850 e il 1904, e Alessandra Contenti ha curato un volume che raccoglie alcuni degli scritti più significativi di Hearn, composti appunto in Giappone. Le farfalle danzano e le formiche si ingegnano. È pubblicato da Exorma. 162 pagine, 14,50 euro, ed è tradotto da Alessandra Contenti. Erna era nato in Grecia da padre irlandese e dopo varie vicissitudini, compreso un lungo soggiorno negli Stati Uniti, si trasferì in Giappone nel 1889, dove si sposò con una fanciulla di nobile origine, dove visse e lavorò come giornalista e insegnante. Era anche un grande appassionato di insetti, comprese le moleste zanzare, e lo scrittore ne patisce le punture, anzi cita una ricetta infallibile per sterminarle, dimostrando però che a seguire questa ricetta un pezzo della civiltà giapponese verrebbe meno. E sentiamo dal libro un'appassionante manifestazione di stima nei confronti delle formiche. Le api invece sono studiate da Mark Winston, che è un biologo canadese. Nel libro Il tempo delle api, lezioni di vita dall'alveare, pubblicato da Saggiatore, 338 pagine, 23 euro, ed è tradotto da Allegra Panini. Come ci spiega lo stesso autore, Winston ha trascorso una parte considerevole della mia vita negli apiari del Canada, degli Stati Uniti, della Nuova Zelanda, dell'Australia, dell'America meridionale e dell'Europa. Insomma, è un grande esperto, e da questo studio ha tratto delle lezioni importanti, delle lezioni utili, scrive, per capire meglio, per esempio, qual è il nostro posto nella natura, nostro di noi umani, non api, per relazionarmi con la gente e gli eventi con maggiore attenzione e sincerità, per interagire più profondamente con la comunità, aprendo il cuore e la mente a una consapevolezza più grande di chi siamo come individui, comunità e specie. E Winston ci spiega il ruolo insostituibile delle api come impollinatrici naturali, addirittura stima che il valore economico globale delle api per l'agricoltura sia di 217 miliardi di dollari, almeno così era stato stimato nel 2008. Ma perché le api sono così importanti, come abbiamo sentito, anche dal punto di vista sociale? Le api, apprendiamo, in realtà passano gran parte della propria vita, nonostante lo stereotipo che le vede come attivissime e sempre a lavoro, passano gran parte della loro vita a non far nulla. Le api operaie poi sono flessibili, cioè fanno di tutto nel corso della vita, non c'è una specializzazione particolare, e questo appunto è il frutto di una gestione e organizzazione del lavoro che possono risultare molto istruttivi. Le api non sono multitasking, si fanno assorbire dal lavoro che svolgono, sono capaci di concentrarsi e sono assai meno distratte, meno disimpegnate, più capaci di fare una cosa alla volta con grande precisione ed efficacia rispetto a noi umani. Infine le mucche di Rosamund Young, che col fratello gestisce una fattoria in Inghilterra, ha avuto un enorme successo con il libro La vita segreta delle mucche, pubblicato da Garzanti, 138 pagine, 15 euro, tradotto da Andrea Di Gregorio. Come ricorda Alan Bennett nella sua introduzione, la Young è una allevatrice da tempi non sospetti, ossia prima della moda, un'allevatrice che segue i criteri naturali. Young porta avanti la battaglia contro l'allevamento intensivo, scrive Bennett, nel modo più semplice e convincente che io abbia mai letto, basandosi sul puro buonsenso. E per condurre questa battaglia e raccontare la sua esperienza, Young appunto ci racconta tante storie delle sue mucche, quasi umanizzate, per concludere con un elenco di cose da sapere sulle mucche, sulle galline, sulle pecore e sui maiali. E sentiamo appunto il profilo delle protagoniste, come emerge dal libro, il profilo delle mucche. Le mucche si vogliono bene, almeno alcune. Le mucche si fanno da babysitter l'una con l'altra. Le mucche covano rancore. Le mucche inventano giochi. Le mucche si offendono. Le mucche sanno comunicare con le persone. Le mucche sanno risolvere problemi. Le mucche hanno amicizie che durano una vita. Le mucche hanno preferenze riguardo al cibo. Le mucche possono essere imprevedibili. Le mucche possono essere di buona compagnia. Le mucche possono essere noiose. Le mucche possono essere intelligenti. Le mucche amano la musica. Le mucche sanno essere gentili. Le mucche possono essere aggressive. Le mucche sanno essere affidabili. Le mucche sanno perdonare. Le mucche possono essere ostinate. Le mucche sanno essere sagge. Dopo aver tanto parlato di animali, una riflessione sull'uomo da parte di uno scienziato che ha dedicato la sua vita a studiare gli animali, il grande etologo austriaco Konrad Lorenz, vissuto tra il 1903 e il 1989, di cui esce per Piano B Il declino dell'uomo, 230 pagine, 16 euro, tradotto da Andrea Casalegno. È un libro scritto sul finire della carriera, improntato a un certo pessimismo sulla condizione dell'umanità minacciata, scrive Lorenz, da una morte lenta a causa dell'inquinamento e di altre forme di distruzione dell'ambiente nel quale e del quale vive. E Lorenz cerca di frenare questa corsa verso il disastro con una serie di osservazioni sulle cause di questa malattia che sembra dominare l'umanità. Ma il pessimismo può anche lasciare spazio alla speranza, dice Lorenz, a patto di arginare, scrive, la deriva tecnocratica che esercita sull'individuo un effetto deresponsabilizzante. E per questo è opportuno, aggiunge, che i ragazzi frequentino la migliore scuola per poter apprendere che l'universo è dotato di senso. E questa scuola è la pratica diretta con la natura. E a questo punto... Il confettino. Parliamo di un coccodrillo, naturalmente, un coccodrillo famoso di cui scrive Fyodor Dostoevskij. Il libro si intitola Il coccodrillo, un evento straordinario, illustrato da Marco Marinangeli e tradotto e ridotto da Assia Nobiloni per Orecchio Acerbo, 16,50 euro. È un racconto sarcastico sul fascino della notorietà che si può alimentare anche nella pancia di un coccodrillo. Prima di salutarci vi ricordo che in questi giorni è caduto il decennale della morte di un popolarissimo giornalista, Enzo Biagi, e allora vi segnalo il libro di Enzo Biagi, La vita è stare alla finestra, la mia storia, pubblicato da Rizzoli, 250 pagine, 20 euro, dove Biagi rievoca la propria carriera, il proprio mestiere, racconta l'Italia che vede e quella che sogna. Ultimi arrivi. Cominciamo con un personaggio molto popolare tra gli appassionati di gialli all'italiana, e cioè Sarti Antonio, il personaggio di Loriano Machiavelli, che appunto l'ha creato e che torna con Uno sterminio di stelle. Sarti Antonio, Il mondo di sotto, è pubblicato da Mondadori, 318 pagine, 19 euro, dove si svolge un'indagine bolognese su un delitto con remote reminiscenze etrusche. Poi vi segnalo il libro di un autore che ha avuto molto successo con il passaparole, che è arrivata alla terza prova letteraria, conta fino a 10, lui si chiama Paolo Cammilli, il libro è pubblicato da Spelling e Kupfer, 304 pagine, 16,90 euro. Questo è un thriller, ma non soltanto, ambientato in un quartiere popolare di Catania, in preda a un incubo per i ripetuti rapimenti di bambini. Ancora, un'autrice indiana di grande successo, Arundhati Roy, che ha scritto Il ministero della suprema felicità, pubblicato da Guanda, tradotto da Federica Oddera, 496 pagine, 20 euro, che è un'affascinante occasione per conoscere l'India dall'interno e per sperare nell'amore e nell'amicizia. E infine vi segnalo il libro, abbastanza voluminoso, ma che scorre con molta facilità, perché in realtà è la ricostruzione di un giallo, un libro di uno scrittore americano vissuto tra il 1905 e il 1981, Meyer Levine, che scrisse Compulsion, lo pubblica Delphi, 580 pagine, 28 euro, con la traduzione di Gianni Pannofino. E il libro ricostruisce l'allucinante storia di due studenti di Chicago che negli anni 20 del Novecento decisero di organizzare il delitto perfetto. In realtà commisero un errore, come ricostruì il famoso film che Hitchcock trasse dalla vicenda, film intitolato Nodo alla gola. Ma anche il racconto merita di essere letto, perché fila appunto come un thriller. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Andrea Roccabella in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.